La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24. Grazie all'ascolto in diretta in podcast qui dagli studi della radio di Milano da parte di Oscar Giannino. Tema pressoché obbligato, perché l'approfondimento in questa ora prima di Focus Economia con Sebastiano Barisoni, che comunque vedrete dedicherà anche lui la giusta attenzione al tema che noi approfondiamo in quest'ora. Comunque in questa ora noi ci dedichiamo alla coda, all'interpretazione, alle opinioni relative a questa tempesta che si è scatenata ieri con la risoluzione a sorpresa presentata dal PD, in cui si chiedeva la sostituzione del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Vi dirò seccamente quello che penso in quattro punti. E ve lo dirò perché la puntata di oggi è una specie di supplemento straordinario dei conti della belva di ogni sabato, perché noi ci avete sentito in questi tre anni praticamente tutti i sabati occuparci di Banca d'Italia, questione bancaria italiana, del resto 12 banche italiane andate a gamba all'aria, 64 miliardi di euro di valore bruciato, dopo anni passati a dire che il sistema bancario italiano era sano a differenza di quello degli altri paesi. Naturalmente non era così, noi lo dicevamo da prima e poi è successo quello che è successo. E oltre quindi a Mario Seminario, Carlo Alberto Cannavale Maffei, avremo poi le opinioni di Udo Gumpel, avremo l'opinione di Ferdinando Giuliano, ma intanto io vi dico come la penso molto seccamente. Non era l'atto parlamentare con cui sollevare questo problema, perché Renzi e il PD sanno benissimo che nelle procedure di nomina a garanzia dell'indipendenza della Banca d'Italia il Parlamento non ha potere, e quindi è stato un atto voluto sapendo da parte di uomini politici navigati come Renzi, che è stato Presidente del Consiglio, che quello non era l'atto giusto. Quindi da questo punto di vista ovviamente la reazione poi del Quirinale e del governo, che non era stato avvisato come non era stata avvisata nessuna altra forza politica, è stata per molti versi dovuta. Ma per chi la pensa come me è un doppio disastro, perché noi per anni abbiamo chiesto un dibattito pubblico in cui la politica affrontasse apertamente le tre questioni sulle quali siamo stati molto critici, ma argomenti e numeri alla mano, non per questioni personali, con come la Banca d'Italia ha esercitato il suo mandato in questi ultimi quattro anni. Il primo sicuramente la vigilanza, perché abbiamo appreso dalle indagini delle procure che in molte di queste banche, penso alle Venete per esempio, insomma è tutto da approfondire, ce lo diranno alla conclusione delle indagini, se le ispezioni di vigilanza non facessero prevalere per anni la convinzione di servire il sistema, non evidenziando, sottolineando i problemi, non obbligando gli azionisti a mettere soldi in più. E questo è il grande problema su cui si è sviluppata la grande collusione italiana tra azionisti bancari, manager bancari, classi industriali che dipendono il loro debito dalle banche e media che hanno sempre difeso in questo una prassi italiana che a nostro giudizio è sbagliata, perché ha reso più debole e non più forte il sistema bancario italiano. E poi l'abbiamo criticata anche per essere diventata intransigentemente critica verso l'Europa sulle modalità di attuazione della direttiva per la risoluzione e la recovery bancaria, la BRRD. Abbiamo appreso solo dopo la risoluzione delle quattro banche che la Banca d'Italia le aveva contestata sin dall'inizio, ma non ce n'era traccia nella storia pubblica della conversione della BRRD. E infine anche sui crediti deteriorati, credere che ci sia una specie di complotto anti-italiano per gli accantonamenti fino al 100% anche di quelli secured, ma in sette anni, beh insomma non ci mette in buona luce in un momento europeo nel quale il QE finirà, e noi sappiamo che quello che sta avvenendo con le urne in Germania, che è avvenuto in Olanda, insomma ci rende più sospettati di nuovo in Europa. Noi volevamo un dibattito pubblico su questo, il dibattito pubblico su questo è sempre mancato perché il Presidente del Consiglio Renzi per primo ha preferito, dopo qualche espressione critica, dopo la risoluzione delle quattro banche nel novembre 2015, rinviare il tutto. E noi siamo rimasti soli a volere un dibattito aperto, che era rispettosissimo, come deve essere, dell'autonomia della Banca d'Italia, ma era numeri e fatti alla mano. Ora invece questa è un'iniziativa elettorale, Renzi l'ha ribadito anche stamattina dicendo deve rimanere agli atti che è mancata la vigilanza. Eri premier, dovevi dirlo allora, non adesso, sotto elezioni e con un atto parlamentare che formalmente è purtroppo irricevibile. Ma resta che poi l'atto parlamentare è stato votato e lì si chiede una sostituzione. E cosa faranno adesso il governo, il Quirinale? Comunque confermeranno Ignazio Visco oppure sceglieranno una via di mediazione con qualche membro del direttorio per dire continuità, anche se personalità ferita di Visco non può essere confermata? È un grande peccato che una questione di interesse nazionale nel quadro del sistema europeo delle banche europee abbia uno sviluppo improprio nella forma, che evita un dibattito serio tra tutte le classi dirigenti italiane, non solo in Parlamento, su una grande questione: il sistema bancario italiano, la sua trasparenza e la coerenza con le regole europee. Per noi, per me, è una grande occasione perduta, e ancora una volta, purtroppo, i leader di partito, secondo me, mettono avanti questioni personali e questioni elettorali. Su una questione, quella del risparmio italiano, quella della Banca d'Italia, del sistema europeo della Banca Centrale, che dovrebbe assolutamente sconsigliare questa maniera di procedere. Ma resta il fatto che le nostre critiche, le mie critiche, non me le dimentico. E a questo punto, ecco il primo ospite, eccoci qui con Mario Seminerio, che ci ha raggiunto e che ringrazio per essere contattabile per telefono. Grazie a te, buongiorno. Allora, hai scritto un post, io rinvio tutti a leggerlo su fastidio.net su questa vicenda, e inizierei a chiederti, c'è qualche analogia secondo te, come qualcuno ha sostenuto nei commenti questa mattina, con la vicenda di Paolo Baffi, dell'attacco alla politica andreottiana a quel tempo, oppure è del tutto improprio? Ma no, come ho scritto anche nel mio post, non per autocitarmi, mi sembra un assoluto non senso, perché Ignazio Visco non è Paolo Baffi, le situazioni sono completamente differenti, c'è sicuramente una a intervalli regolari un'aggressione della politica all'autonomia della Banca Centrale, e oggi la Banca Centrale nazionale in area euro serve a cose differenti di quelle a cui serviva ai tempi di Baffi. Però non ha senso fare un parallelo di questo tipo. Il problema è, come ho scritto nel mio post, una banca centrale presidia e preserva il sistema fin quando il sistema non viene aggredito da eventi esterni, nel caso specifico il cambiamento delle norme europee in senso molto più restrittivo e anche una crisi economica e finanziaria gravissima, la peggiore del dopoguerra, che hanno mostrato tutta la inadeguatezza del sistema paese, ancora una volta, rispetto al cambiamento del contesto esterno. Questo è il nucleo centrale di tutto il problema. Vederlo in termini di assalto della politica alla presunta indipendenza della banca centrale, che secondo me è indipendente fino ad un certo punto, questo lo sappiamo tutti, è inutile che giochiamo a fare le educande, vuol dire non aver capito e non riuscire ad inquadrare il contesto in cui si sta svolgendo questo tentativo di Renzi e del PD guidato da Renzi di allontanare da sé lo stigma per tutti i danni e le devastazioni che si sono prodotte in questa legislatura sul risparmio degli italiani, un conto che peraltro non è ancora arrivato a completa esazione. Ah no, anche perché lo sapremo tra anni, visti i meccanismi di in cui si faranno i conti finali. Esatto. Dei denari che ci ha messo lo Stato, a cominciare da Siena e così via. La tesi della Banca d'Italia e dei suoi difensori, che oggi prevalgono, ma sono sempre stati in assoluta maggioranza anche nell'informazione italiana, è quella che bisogna distinguere. Cioè, la Banca d'Italia si è battuta, quelle che noi spesso abbiamo criticato ai conti della Belva in questi anni, come opacità nell'azione di vigilanza, in cose che abbiamo scoperto solo nelle indagini da parte delle procure, penso a Vicenza, alle liste di clienti baciati che vedremo nel procedimento, ma insomma che i dirigenti della banca sostengono di aver consegnato agli ispettori 2 anni prima che poi la banca finisse gambe all'aria. Noi stessi abbiamo spesso criticato ciò che apprendevamo solo dalle procure, ma la tesi invece ufficiale è la Banca d'Italia, non vi rendete conto, ma ha seguito queste linee perché difendeva comunque la stabilità del sistema e lavorava per il meno peggio, anche quando pensava di dire a Vicenza prendete una delle 4 banche risolte poi nel novembre di anni fa. E questa tesi ha un fondamento retrospettivamente secondo te o no? Ma secondo me sì, perché allora la Banca d'Italia ha ragione da vendere quando dice che contro condotte criminose e criminali non c'è vigilanza che tenga, e su questo siamo tutti d'accordo. E di qui il proliferare della fattispecie per cui indagano le procure, l'ostacolo alla vigilanza. Esatto, quindi questa è la cosa che tra virgolette salva l'integrità e la virginità della Banca d'Italia. Però c'è un altro punto che è di sistema Italia, e cioè cosa succede quando ci sono delle banche che hanno dei gruppi di controllo che sono squattrinati, ma che devono fare aumenti di capitale perché stanno subendo un aumento di sofferenze e fanno fatica a tamponare e contenere difficoltà che crescono? Ecco, allora succede che questi signori magari vanno dalla Banca d'Italia, dicono: non riesco a trovare tutti i soldi sotto forma di azioni, magari emetto delle subordinate, perché tanto cosa vuoi che sia? Cosa potrà mai succedere a delle subordinate visto che non è successo nulla? E allora magari la vigilanza della Banca d'Italia dice: non mi sembra la soluzione migliore, però prendo atto che senza questa soluzione tu vai a gambe all'aria perché non hai soldi. E allora ecco che ci si volta dall'altra parte. E il potere politico sa perfettamente che la Banca d'Italia si è voltata dall'altra parte, perché se non lo avesse fatto il sistema sarebbe crollato ben prima del periodo in cui è crollato. Ora, magari questo sarebbe stato bene, però è ovvio, cioè, quando Guido Carli diceva se una banca centrale resistesse all'esecutivo sarebbe sedizione. Lo diceva a proposito del finanziamento monetario, del deficit. Ecco, allora rendiamoci conto qual era la lezione di Carli, cioè le banche centrali sono indipendenti, ci piace pensare che siano indipendenti, ma c'è una linea rossa al di là del quale le banche centrali non possono andare, perché sarebbe la tecnostruttura che si rivolta contro la politica che esprime il comune sentire ed è legittimata. Se il comune sentire e soprattutto la vicenda del paese è quella di gruppi di controllo delle banche che sono fatte da conventicoli, amici degli amici, prestiti dati ad mentulam canis e poi tutto sotto il tappeto, che cosa può fare la tecnostruttura della Banca d'Italia? Menare guerra alla politica? Magari sì, magari fossi stato io l'avrei fatto, ma io sono notoriamente un kamikaze su queste cose. Oppure accomodarsi, fingere che tutto continui ad andare bene, perché tanto prima o poi ci pensa lo stellone italico. Ecco, forse hanno pensato a questa eventualità, però ha cambiato drammaticamente il contesto esterno, quindi l'habitat, quello che io chiamo l'habitat. Quando cambiano gli habitat, gli ecosistemi, le specie meno adatte a sopravvivere soccombono. Allora la mia domanda è: l'Italia come sistema paese è inadatta a sopravvivere nell'ecosistema non tanto europeo quanto globale in cui noi ci troviamo? E questo è il punto, non voglio fare discorsi di massimi sistemi, non voglio scendere nella solita polarizzazione italiana, Guelfi, Ghibellini, viva Visco, a basso Visco, a me non interessa di Ignazio Visco, cioè a me sinceramente non interessa. È chiaro che Renzi ha cercato e sta cercando di rifarsi una verità o comunque di ridurre il danno politico, perché il suo partito ha oggettivamente addosso uno stigma, a torto o a ragione, soprattutto in un paese che si nutre di capri espiatori come questo. E quindi io vedo l'azione di ieri come una sorta di atto dovuto, ma che non fa altro che confermare quanto è fragile intrinsecamente e ad alto rischio di fallimento il nostro sistema paese. Io non so come la pensi tu, ho detto prima che la mia opinione è che un Presidente del Consiglio ha avuto 3 anni per esprimere, visto l'impatto che le vicende bancarie avevano durante tutta la sua durata, del governo dei 1000 giorni, di esprimere nelle forme dovute, istituzionali, stiamo sempre parlando del rapporto tra un Presidente del Consiglio a quel punto in carica e una delle banche del sistema europeo delle banche centrali, ma per esprimere opinioni che invece si è fermato impropriamente in quei mesi a esprimere, per poi tradurle in un attacco nel suo libro quando non era più Presidente del Consiglio e adesso in questa risoluzione. A me sembra un'improprietà e mi sembra che Renzi sapesse benissimo che quella risoluzione oltretutto non era neanche in linea con le procedure per chi elegge e con che poteri poi il capo della Banca d'Italia. Però tutto sommato, come dici tu, lui ha voluto rimarcare il fatto che se la pigliano loro la responsabilità di confermare Ignazio Visco. È un atto di astuzia politica? È un atto comunque comprensibile? Che giudizio ne dai? È un atto comprensibile. È un atto, secondo me, senza molte alternative, perché vuole allontanare da sé lo stigma e ridurre il danno. È un atto che non produrrà, secondo me, nessun beneficio al di là dei soliti dibattiti polarizzati nei teatrini televisivi e sui giornali dove circolano pizzini a mezzo stampa, e già stanno circolando ampiamente. Però per quanto riguarda tutto il resto, non sposta di una virgola l'ago del sistema paese. Perché comunque Renzi avrebbe dovuto oggettivamente, anziché andare in giro a dire 2 anni fa Monte Paschi è risanata e vive, compratene, prendete e mangiatene tutti del Monte Paschi, non fosse stata una gravissima ingenuità politica, mi fermerei al termine ingenuità, non userei altro. E nel contempo Renzi andava a dirsi molto preoccupato per la salute delle banche tedesche, cioè della serie: se vogliamo fare gli spiritosi spariamo la grossa. Ecco, forse magari 2 anni fa o giù di lì Renzi doveva mettersi attorno a un tavolo, magari col Presidente della Repubblica, con magari altri interlocutori, e dire: signori, facciamo una riforma organica della Banca Centrale. Ma poi io non saprei dirti in quale direzione. No, però la modalità e il tempo, condivido molto queste tue osservazioni, che sono secondo me anche istituzionalmente corrette, perché ci hai indicato una modalità che è istituzionalmente corretta, perché bisogna poi ovviamente in quel caso muoversi avendo in mente di dover minimizzare gli impatti sui mercati quando già hai delle banche che vanno a gambe all'aria. Intanto, allora, grazie a Mario Seminerio, e dopo Mario ci ha raggiunto per telefono, io molto lo ringrazio ovviamente, caro Alberto Cannavale Maffei, lo sapete, compare di Conti da Bilba ogni sabato, professore della, di strategia aziendale alla SDA Bocconi, e anche lui inizia con una domanda generale. Dopo la risoluzione del PD votata ieri e tutto il caos che ne è derivato, stamattina Veltroni l'ha giudicata ingiustificabile, i commenti della stampa sono stati tutti contrari praticamente all'atto di Renzi. Che ne pensi, caro Alberto? Io il giudizio lo distinguerei, nel senso che il giudizio sull'operato di un'istituzione è una cosa, quello sulle singole persone è un'altra. Il PD, ma direi tutto il Parlamento, perché ricordo che le mozioni di critica sono state presentate dal Movimento 5 Stelle, da Lega, e la mozione del PD è stata, si è astenuta Forza Italia su questa mozione. Quindi io non so, ma tutto il Parlamento ha criticato l'azione di Banca d'Italia. Semmai la mozione del PD è la più morbida nei confronti di Banca d'Italia. Quindi io credo sia una cosa per certo che tutto il Parlamento, più o meno esplicitamente, ha criticato l'attività di sorveglianza di Banca d'Italia. Per esempio, non ci sono note critiche sulla politica monetaria. Perché? Perché la politica monetaria da 15 anni è dominio della BCE. Quindi cominciamo a distinguere un aspetto. L'ultima volta che fu nominato il governatore di Banca d'Italia, era il 2011, esattamente 6 anni fa, la Banca d'Italia era un'altra cosa, aveva la competenza totale sulla sorveglianza, già aveva perso quella sulla politica monetaria, ma aveva la competenza totale sulla sorveglianza. Cosa è successo? Che in questi 6 anni questa competenza è stata completamente ribaltata e ormai Banca d'Italia ha in sorveglianza solo le banche piccole e minori, cioè circa meno del 20% degli asset bancari. Le grosse banche, e quelle che l'anno prossimo diventeranno anch'esse grosse, per esempio le casse di credito cooperativo ex confluite nei gruppi, saranno di competenza della BCE. Quindi cosa rimane a Banca d'Italia? Di fare l'esecutore dei processi di sorveglianza della BCE. Bene, questo è il contesto, questo è quello che stiamo nominando, il governatore che nominiamo, questo deve fare. Allora, ha senso la critica del Parlamento, non solo del PD, a una Banca d'Italia che ha interpretato in maniera molto soggettiva il suo mandato di sorveglianza? Mi spiace, Oscar, ha senso, e lo dicono tutti gli italiani, e lo dicono i fatti, perché abbiamo una Banca d'Italia che ha negato la mancanza di solidità per anni, fino a prendere atto che una dozzina di banche erano fallite o sul punto di fallire. Quindi mi dispiace, ma la risposta del Parlamento, per quanto inusuale, probabilmente un po' rozza, con linguaggi secondo me non convenienti, ecco, io critico il linguaggio, ma accetto la legittimità di criticare. E comunque non stiamo nominando un governatore di Banca d'Italia, stiamo nominando un funzionario locale della BCE. Spero che questo sia chiaro agli ascoltatori. Beh, non lo è ai lettori dei giornali italiani, perché sui media italiani è prevalso oggi quello che è sempre prevalso del resto, cioè la considerazione di una Banca d'Italia come una delle più alte istituzioni la cui autonomia era stata posta sotto schiaffo e attentata ieri. Che l'autonomia fosse messa sotto schiaffo è vero, ma non era perché la politica aveva fatto pressioni su Banca d'Italia, perché Banca d'Italia era sostanzialmente a braccetto con la politica a difendere l'italianità delle banche, l'Italian way of banking, se posso dire, che sostanzialmente si è dimostrato, se non fallimentare, altamente esposto ai rischi. Ricordo che abbiamo ancora quasi un quarto di tutti gli NPL d'Europa in questo paese, e abbiamo anni di lavoro prima di ripulire tutto questo. Mi dispiace, la Banca d'Italia, e quindi il nuovo governatore, dovrà allinearsi alle regole europee ed essere ordinato e affidabile esecutore delle politiche. No, lo dico io, lo prescrive la legge, articolo 19 della 262/2005, dice che l'Italia è parte dell'eurosistema e agisce in conformità e su mandato della Banca Centrale Europea. Punto. Non risponde al Parlamento, meno male, ma non risponde neanche al governo e neanche al Presidente della Repubblica, esatto, che secondo me francamente ha perso un'occasione per stare zitto, perché ha criticato il Parlamento dicendo Banca d'Italia deve tutelare gli interessi delle comunità nazionali. Ma che cosa? Ma non è vero, Banca d'Italia no, aspetta, deve fare rispettare però le regole. Sì, il Presidente della Repubblica è intervenuto perché non spetta al Parlamento dare indicazioni formali su in nessun modo, che erano contenute nella versione iniziale della risoluzione, quando si diceva che però sono rimaste anche in quella approvata, perché comunque sì, anche lì si dice posso essere d'accordo con Mattarella, cioè che non spetti al Parlamento nominare, questo lo dice la legge, ma che invece Mattarella dica che il Parlamento non può pronunciarsi perché Banca d'Italia deve tutelare l'interesse dell'economia nazionale. Bene, Mattarella evidentemente si è perso gli ultimi 15 anni di norme europee, di trattati. No, Banca d'Italia esegue il mandato della BCE, è il governo e il Parlamento a tutelare l'economia nazionale, scusate, non Banca d'Italia, ha un obiettivo di stabilità finanziaria, ha un obiettivo di inflazione al 2%, ha un obiettivo di sorveglianza, quello deve fare, poi è ovvio che deve fare da mediatore, deve far presente le istanze, deve far presente che l'economia italiana è peculiare, ha la sua dinamica, tutto giusto, ma è diverso dire che non si tocca l'economia, la Banca d'Italia perché deve difendere l'italianità. No, mi spiace, non sono d'accordo. Una domanda all'osservatore del mercato. A questo punto, dopo il voto parlamentare, dopo che il Quirinale, Gentiloni, Padoan, Veltroni, tanti altri, la stragrande maggioranza dei media italiani, hanno detto no, Visco deve rimanere, ma sui mercati un segnale, se rimanesse dopo questa, che comunque è un bonus, sarebbe una cosa dimenticata in pochi minuti, avrebbe una conseguenza? Ma per quello che deve fare Banca d'Italia ormai il governatore veramente è molto meno importante di prima. Io mi auspico che sia qualcuno che sa interloquire con Francoforte, anzi deve essere in dialogo strutturale e perfetto coordinamento, cosa mi dispiace che non è avvenuta in questi ultimi due anni tra Via Nazionale e Francoforte. Mi auguro qualcuno che sappia veramente far ribaltare il principio dell'indipendenza, che non è indipendenza dalla politica italiana, ma è indipendenza in base ai criteri del mandato BCE. Quindi i mercati sanno che sono beghe provinciali queste qua, e quindi secondo me non danno tanto peso. Chiaro che una riconferma di Visco vorrebbe dire che qualcuno insiste nella linea precedente, è una linea che, ricordo, espone l'Italia a rischi importanti, ok? Negare la realtà. Una novità invece secondo me sarebbe importante, Visco l'ho notato molto più preparato sulla politica monetaria, io lo vedrei benissimo nell'executive board della BCE, perché tutti i suoi interventi di politica monetaria sono stati molto coerenti e in linea. Secondo me sarebbe un'ottima way out, questo è il mio commento. Intanto grazie anche a Carlo Alberto, adesso andiamo alle notizie sulla borsa e un po' di pubblicità e poi torniamo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta a parlare di Banca d'Italia dopo la risoluzione PD di ieri, che è stata emendata per l'intervento sorpreso ma durissimo del capo dello Stato e del governo, ma insomma resta il giudizio nel testo approvato che poi serve una discontinuità rispetto a Ignazio Visco. Ha ribadito Renzi, ve l'ho già detto stamattina, deve rimanere chiaro che quello che pensa il PD, cioè che nel settore banca testuale è successo di tutto ma è mancata la vigilanza. Io devo due risposte intanto a due famiglie, per così dire, di sms che arrivano. I primi dicono: sei anti-renziano quindi grillino. Ma ragazzi, liberi ciascuno di pensarla come volete, però chi segue la nostra trasmissione del sabato e tante puntate anche della versione di Oscar dedicata in questi anni alle banche sa che noi abbiamo sempre criticato merito alla mano, numeri alla mano, norme alla mano. Quindi questa storia per cui chiunque secondo voi obietti al fatto che la risoluzione ieri, come vi ho detto, è stata presentata da gente che sa perfettamente che il Parlamento non esprime indicazioni per la nomina dei successori, ma come ha detto Carlo Alberto Canalamaffè, il Parlamento si occupa sì dell'economia nazionale. E io ho criticato Renzi perché lo sa benissimo, dopo aver espresso alla risoluzione delle quattro banche, tra cui Banca Etruria, una malmostosità molto evidente, poi da quel momento in poi ha lasciato chi criticava e chiedeva nelle sedi dovute, con il rispetto dovuto, però un dibattito serio sulla vigilanza, sulla direttiva a cui la Banca d'Italia era e resta contraria, quella europea, e sui crediti deteriorati, stessa cosa, un confronto pubblico, e il PD e Renzi è sparito. Chi chiedeva che la commissione di indagine parlamentare sulle banche fosse attivata non nelle ultime settimane prima del voto come è avvenuto adesso, perché non serve a una mazza, vi è chiaro che la politica ha fatto questa scelta, scelta, ma nei tempi dovuti ha ottenuto sempre di rimbalzare. E tutto questo con essere grillini, perdonatemi, non c'entra assolutamente niente. Niente. Ecco, dopodiché alcuni di voi invece difendono la Banca d'Italia dall'ignobile attacco del PD. Formalmente l'ho già detto anch'io come la penso, nella realtà a me resta l'amarezza di un paese che su temi fondamentali della vigilanza e della trasparenza nella vigilanza, dell'adeguamento del capitale delle banche, delle norme europee, si riduce a dividersi in renziani e grillini. Perdonatemi, è un atto di totale mancanza di serietà rispetto all'impatto che queste vicende hanno avuto nella solidità economica italiana, ce l'hanno nella tasca di centinaia di migliaia di risparmiatori italiani che hanno visto le cose andare in fumo dopo che avevano creduto a chi gli aveva detto che avevamo il sistema bancario più perfetto del mondo. Io questo ho sempre criticato e non c'entra niente con l'essere per l'uno o per l'altro. Votate chi volete, ma io non mi occupo di questa faccenda qua. Allora, passiamo a un altro osservatore e un altro punto di vista. Ci ha raggiunto Ferdinando Giuliano, editorialista di Bloomberg, e vediamo, a giudizio di Ferdinando Giuliano, a giudizio anche della testata per cui scrive, lui risponde a titolo individuale, però stiamo parlando di uno degli osservatori dell'economia, della finanza europea e mondiale più accreditati. Quindi questa vicenda ha i suoi occhi, grazie di essere con noi innanzitutto. Che impatti e che significati ha? Che conseguenze può avere, Ferdinando? Buonasera. Allora, la vicenda ovviamente è interessante non solo per l'Italia, ma anche per il resto della zona euro. Ricordiamo che l'Italia è membro dell'Unione Bancaria, proprio perché questo nuovo, diciamo, istituzione è stata creata all'interno della zona euro, e ovviamente l'Italia è stata uno dei paesi più critici delle nuove regole dell'Unione Bancaria. La Banca d'Italia si è più volte fatta, diciamo, interprete di queste critiche, spesso coincidendo in maniera un po' inusuale con le stesse critiche dei banchieri. Cioè, c'era un po' di, come si può dire, somiglianza fra le critiche che venivano dal supervisore e quelle che venivano dai soggetti vigilati. Quindi il successore di Visco, oppure la riconferma di Visco, avranno un ruolo cruciale negli anni a venire nella costruzione di queste regole, nell'adattamento, nell'eventuale cambiamento di queste regole. Quindi penso che questa nomina interessi molto anche fuori. Sulle vicende, io francamente, è evidente che quello che è avvenuto ieri è molto inusuale, però trovo abbastanza sorprendente che un paese che abbia attraversato una grossa crisi bancaria, che ha richiesto l'intervento dei contribuenti con il salvataggio di Monte dei Paschi e la liquidazione assistita delle banche venete, e allo stesso tempo ha chiesto anche grossi sforzi ai risparmiatori, perché ovviamente ci sono degli investitori che hanno perso un sacco di soldi, per esempio nella vicenda delle banche venete. Ecco, tutto questo non è stato soggetto a nessun tipo di reale analisi, e francamente penso che un organo di vigilanza come la Banca d'Italia, che domanda in pubblico se la sarebbe dovuta fare. Questo che vuol dire? Che la politica ha ragione a attaccare l'indipendenza delle banche centrali? No, l'indipendenza delle banche centrali è un qualcosa di sacrosanto, serve a garantire che, appunto, per esempio, la politica non si metta in mezzo in decisioni importantissime dal punto di vista economico-finanziario. Però c'è un altro lato dell'indipendenza, che è l'accountability, cioè i banchieri centrali devono rendere conto del proprio operato. E questo va fatto durante il mandato, con l'audizione al Parlamento, ma soprattutto nel momento in cui c'è un cambio possibile di leadership all'interno di un istituto. Io penso sia doveroso che i politici in quel momento si facciano delle domande: che tipo di governatore vogliamo, cosa vogliamo che quale vogliamo che sia l'indirizzo della Banca d'Italia o di qualsiasi banca centrale negli anni futuri. Ecco, questo secondo me con l'indipendenza c'entra poco, sono domande legittime, perché alla fine questa si tratta di un'istituzione come altre, che deve avere un'importante indipendenza, ma deve dar conto del proprio operato come tutte le altre istituzioni democratiche. Per esempio, secondo me, nel pieno rispetto delle prerogative di autonomia e indipendenza sancite a favore del sistema europeo delle banche centrali, di cui fa parte la Banca d'Italia, se dalla politica fosse venuto come proposta di strumento imparata la lezione di questi anni, dopo aver ripetuto che avevamo lo sistema bancario più figo del mondo, per esempio di procedere all'adozione di una valutazione sistemica, cioè da fare ordinariamente ogni X anni, affidata a terzi indipendenti, delle attività che secondo lo statuto della BCE sono affidate alla Banca d'Italia, tra cui anche quelle di vigilanza, come abbiamo sentito da Carlo Alberto. Un assessment, quindi un giudizio, una valutazione da parte dei terzi indipendenti, a giudizio di Ferdinando Giuliano, sarebbe compatibile con lo statuto BCE e Banca d'Italia o sarebbe anch'esso visto come una lesione dell'indipendenza? Sarebbe un passo verso la trasparenza e il rendere conto, l'accountability che propone Ferdinando Giuliano, oppure no? Io credo che sarebbe stata una mossa molto intelligente, prima di tutto molto intelligente da parte della Banca d'Italia. Personalmente le commissioni, sono molto scettico delle commissioni parlamentari italiane, sembrano più che altro un teatrino fatto per casse di risonanza. Giornali. Esatto, una cassa di risonanza, quindi soprattutto se fatte a pochi mesi dalle elezioni, dove ovviamente saranno in grado di scoprire ben poco. Allora, per evitare quello sarebbe stato, secondo me, opportuno che, questo l'ho scritto per esempio in diversi editoriali per Repubblica, per Affari e Finanza, sarebbe stato opportuno che la Banca d'Italia dicesse: benissimo, ci sono dei dubbi sul nostro operato, noi siamo convinti di aver fatto tante cose bene, invitiamo qualcuno da fuori, un supervisore con esperienza al di fuori di questo paese, e gli facciamo scrivere un rapporto su quello che è stato fatto da parte della Banca d'Italia. Questo, secondo me, avrebbe permesso di separare le tante accuse sbagliate che pure ci sono state nei confronti di Visco della Banca d'Italia, soprattutto anche da parte dei politici che ovviamente avevano le loro responsabilità, da quelle che invece erano delle eventuali responsabilità corrette. E dirò di più, non si tratta solo di guardare al passato, si tratta anche di guardare al futuro. Se qualcosa non ha funzionato, sia per esempio nel metodo di vigilanza, ma anche poi su come sono state gestite le crisi bancarie. Penso per esempio al Fondo Atlante, che ha sorretto il mondo per un anno e poi ha perso un sacco di soldi. È giusto che si rifletta su questi, se questi strumenti siano stati validi, utili, perché tra qualche anno potremmo trovarci in una situazione simile. Esatto, soprattutto, se restiamo convinti del fatto che abbiamo fatto una tenace battaglia contro gli orrendi e famigerati uni del Nord Europa, credo che non abbiamo capito bene quello che è successo. Questa è la mia opinione. Io ringrazio tanto Ferdinando Giuliano. Adesso andiamo all'informazione sul traffico e ci raggiunge poi, speriamo naturalmente, Udo Gumpel. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, ultima parte di questa puntata, una specie di supplemento straordinario dei conti della Belva del Sabato, dedicata inevitabilmente alla vicenda esplosa con la risoluzione del PD, fortemente voluta da Renzi, su cui torna Renzi oggi, cui si è chiesta la sostituzione del governatore. Renzi sa benissimo che la forma parlamentare era impropria, ma ha voluto in questo, prima delle elezioni, dire a tutti gli italiani: la responsabilità non è nostra. Molti ascoltatori richiamano con una certa fondatezza, secondo me, il fatto, dice, ma tu ti sei dimenticato di dire quanto la politica poi ha contato nella vicenda di certe banche andate per aria? Sì, non solo MPS, ma anche Etruria. Lo sappiamo, fate bene a ricordarlo. Lo dico perché anche questo è un pezzo della storia bancaria con cui non si fa i conti in questi anni. E con noi Udo Gumpel, lo conoscete, corrispondente dell'Italia per la rete televisiva tedesca e RTV. Grazie di essere con noi, Udo. Sì, grazie a te dell'invito e parliamo di questo spinosissimo capitolo. Che impressione ti ha fatto ieri questa vicenda? Non mi ha fatto una bella impressione, perché mi è sembrato uno scaricabarile, perché non è certamente responsabilità diretta, penale e anche civile del signor Renzi o del PD in quanto partito, ma in quanto gruppo dirigente di questo paese da decine di anni sì. Perché la situazione penosa del settore bancario ha a che vedere molto con l'influenza della politica, e non mi riferisco soltanto all'MPS, che Renzi stesso, infatti mi sono ricordato, nel 2016, per un ottimo investimento. Invitava a comprare, perché era risanato. Comprate. Dunque, questo è vanamarchi della politica, no? E questo mi dispiace molto, perché una persona che in altri settori, lo voglio ricordare, alternanza, scuola, lavoro, ha dato, come posso dire, delle delle buone dritte, però in questo caso è veramente un disastro completo, questo assolutamente è vero, e sono anche molto dispiaciuto per dover notare questo fatto, no? E allora adesso mi sembra uno scaricabarile sul Visco, che naturalmente la vigilanza non ha funzionato, però dall'altra parte l'intero sistema bancario italiano ha non solo del marcio in Danimarca, ma se tu mi correggi, tu conosci sempre molto bene tutti i dati e precisi, ma il 14,8% di NPL, che non è un acronimo, significa di dare soldi dati dal sistema bancario italiano a delle persone, aziende e chi che sia, che però queste situazioni sono andati in malora. Dunque sono soldi, quant'è? 300 miliardi che non torneranno mai più, torneranno in una piccola percentuale. Bisogna essere onesti, riconoscere finalmente questo disastro, che è il terzo un quarto del alla totale crescita, un quarto del totale europeo, quindi. Esatto, un quarto del totale europeo, e solo dietro alla Grecia, insieme alla Spagna, la situazione più drammatica del settore bancario. E qui si è fatto la politica dello struzzo, questa è la cosa drammatica. Non è solo una colpa del PD, dei pidini della sinistra, ma guardiamo anche al Veneto. Nel Veneto mica ha governato il PD negli ultimi anni, abbiamo visto il salvataggio delle banche venete, no? Dunque anche lì malaffari, amicizie pericolose, crediti dati alla leggera. Dunque abbiamo l'intero programma ambaradam delle colpe varie. Dunque vai a mettere solo sul banco degli imputati Renzi e i suoi. Lì ci potrebbero prendere posto in pratica l'intera classe politica. A me dispiace dirlo, anche i rappresentanti delle imprese in un sistema come quello veneto era evidente, ma anche ad Arezzo come altrove erano dovunque lì dentro. Ecco, diciamoci la verità. Diciamoci la verità, non è che adesso siamo pagati. Io non dico che... Guarda, poi naturalmente primo argomento che l'ascoltatore dice: ah, ma la Germania ha messo 240 miliardi. Sì, vero, ma li ha messi 11 anni fa, quando la crisi è scoppiata, hanno chiuso le banche e oggi si celebrano alcuni processi ai banchieri. Dunque la cosa è stata fatta quando? A parte il fatto che le regole europee lo non c'erano in quel momento, esatto. Ognuno andava per conto suo, cercava di salvare capre cavoli. Naturalmente in Italia per 10 anni abbiamo sentito: noi abbiamo un sistema bancario sano, noi non dobbiamo intervenire. Poi, ma secondo te le risaglie erano già visibili 5-6-7 anni fa, appunto, solo che chi ne parlava passava come un nemico della stabilità italiana. Questo ne so qualcosa. Chi metteva il dito nella piaga diceva: voi volete solo far crollare le banche italiane. Poi quando sono crollate ci hanno continuato ad accusare di essere comunque nemici dell'Italia, perché ne parlavamo estendendone troppo responsabilità. Vogliono solo comprarsi le banche italiane, ma chi se le compra? Non hanno trovato neanche... Detto questo, secondo te, a questo punto, Mattarella, Gentiloni, eccetera, che cosa è meglio che facciano? Confermare Visco comunque una linea interna, cioè all'interno di un sistema come il sistema europeo della BCE, in vista del fatto che poi il cui l'anno prossimo va a esaurirsi, che poi ci sarà la scadenza del mandato di Draghi? Va bene che si cambiano le facce, conosci il vecchio detto: o si cambiano le cifre o cambiano le facce. Naturalmente Visco anche, e la gestione attuale di Banca Italia, ha molte colpe a voler ignorare, a sperare che alle calende greche le cose si risolvano. Cioè, questo è chiaro che lui ha anche delle colpe politiche, diciamo, in questa storia. Però adesso la mossa mi sembra molto molto elettorale, ad effetto, sì, a voler prendere distanze da una gestione che tu hai cogestito per un decennio. Sì, sono molto d'accordo con te, io è questo che non capisco. Cioè, allora, quando eri premier, nel rispetto dell'autonomia della Banca d'Italia, dovevi formalizzare il problema, era evidente che non eri d'accordo, eppure questo, ripeto, non si è visto dal novembre 2015 in poi. E quindi farlo adesso in questo modo significa che le elezioni contano più della sostanza, di che cosa bisogna cambiare la Banca d'Italia. capitale. Ecco, questa è la mia conclusione personale. Ringrazio anche Udo Gumpel per essersi reso disponibile a questa riflessione a più voci, e continuate naturalmente con Radio 24. C'è Sebastiano Barigioni. Non è un mistero che Sebastiano è molto più vicino alla difesa della Banca d'Italia e dell'eccezionalità italiana di quanto non lo sia io, ma questo è il bello di Radio 24: pluralismo dei punti di vista e ovviamente il rispetto per voi tutti che la pensate anche tra voi molto diversamente, come si vede dagli sms che ci arrivano. Continuate con Radio 24, appuntamento con me domani mattina alle 8:15 come sempre, con Luca Tellese a 24 mattino, e poi pomeriggio alle 16 come sempre la versione di Oscar.